Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. La lontananza, sai, è come il vento che va a dimenticare chi non sa. È già passato un anno ed è un incendio. Gioranza, sai, è come il vento che rischia di finire in miglia vacca quando Gotor si sveglia e poi si incanna. Beh, intonato, Verdini è intonato. Mi diverto. C'ha anche una carriera come baritono. Sì, il cieco e la bellona, cioè ci vorrebbe una signora che mentre io canto fingendo di essere cieco perché sennò tirano le uova, vada a raccogliere i soldi. Beh, può andarci semmai con un senatore a sua scelta maschio, però non è la stessa cosa. Non faccio la sessista, la coppia è il cieco e la bellona a Firenze. Il cieco e la bellona, Maria Latella, porti un parlamentare con lei, magari non so, Lucio Barani, quello che può fare lui la bellona, visto che i gesti della bellona li conosce. Non fare gesti! Lorenzo Nespoli, che sei al Senato? Oh! E dove ti pare d'essere qua? Fai gestacci, fa cose. Che ti sembra essere una seduta per discutere la riforma. Andatene da! Fantacalcio, a un certo punto dicevo dai Signe, fanne un altro, solo che c'ho anche Diego Lopez al fantacalcio e quindi è un po' un casino di Rodrigo Eli e 4-0. Bello questo di Rodrigo Eli, bello, in scivola in spaccata, guarda che la buttata in spaccata non era facile entrare su quella palla dopo track. Quindi come funziona se ho Insigne al fantacalcio ma anche Diego Lopez? Cioè ogni gol è più 3 e ogni gol preso è meno 3? No, dai. Meno 2, quindi insomma se il portiere prende è meno 2, se invece segna l'attaccante è più 3, quindi più ne faceva e meglio era. Ragazzi, dai che è lunedì, forza, c'è Lorenzo Nespoli in redazione che mima Lucio Barani, c'è Peter Bescapè in regia che mima il senatore Danna, anche lui il senatore Danna ha fatto il classico gesto. La lontananza, sai, è come il vento. Avete capito, no, il gesto? Vabbè, voi usate l'immaginazione. Ha detto io mimavo il gesto di quelli del Movimento 5 Stelle, l'ho solo rifatto. Tutte cose che il nostro Marione Adinolfi ha fatto e rifatto Mario e rifatto varie volte quando era alla Camera, Marione. Io sono stato un parlamentare irreprensibile, ho cantato una volta l'Inno d'Italia. Sì, vabbè, mitica quella prestazione. La ricordiamo. È stato il mio unico gesto, diciamo, fuori dalle regole. Una volta mi sono tolto le scarpe, mi ricordo anche questo. Una volta ti sei tolto le scarpe, come Nikita Khrushchev. Sì, no, semplicemente avevo caldo, per cui ho deciso che non c'era il regolamento. Che immagine terribile! Mario Adinolfi che si toglie le scarpe per il caldo. Richiamato dai commenti. Ma com'è? Ma perché, scusa, ma eri allo scranno e quindi come era fatto? Allo scranno, come ha fatto a vederti, scusa? Non lo lo so, qualcuno aveva interesse che mi vedeste. Qualcuno ha sentito che Mario Dinolfi si era tolto le scarpe. C'è una roba talmente imbarazzante che voglio convocare subito Vincino. Il nostro Ciao. Vincenzo, eccolo qua, Vincino. Eccoci. Te lo immagini a Dinolfi con le. Ma era un'altra legislatura quello là di Dinolfi, però. Sì, vabbè. Cioè, no, hanno cambiato tutto i grillini sono arrivati e hanno trasformato Parlamento, Camera e Senato in un bordello unico perenne. Eccolo lì. In urla cose perenne, ma t'assicuro, sì, guarda, io seguo il Parlamento dall'80 al 1900, per cui, come dire, ne ho viste tante, ma mai quando la rivista continua è lo spettacolo continuo per i giornalisti, no, non ne frega niente di quello che si usa, di quello che fa, no, no, bordello, manette, bordello, cose, bordello, casino, cose, qualsiasi cosa e qualsiasi genere. No, al Senato c'è uno che urla come un pazzo, uno scatenato, uno di Trapani, uno di un'altra parte di quello di Catania, terribile. Sei un po' raffreddato, però sei un po' raffreddato, Vincino. Secondo me ne hai dette un po' troppo al Movimento 5 Stelle, che qualcuno ti ha augurato un raffreddore. No, è quello. Non è questo, però, come dire, là è il nostro apicella di Renzi, Verdini è stupendo. Verdi, no, vabbè, ragazzi, adesso il posteggiatore di senatori, il posteggiatore di senatori non è male. Adesso Mariona Dinolfi ci spiegherà perché è giusto fare le riforme con. Aspetta, prima Marione, prima l'abbiamo recuperata la tua performance straordinaria. Fratelli d'Italia, l'Italia se destra. Io le chiedo scusa. Smetta. Questo la smetta in ordine, in modo perentorio, è bellissimo. La smetta. Mi contestò l'intonazione. No, come li contestò? Mi contestò l'intonazione, ma la smetta. Così dopo con dice una cosa tipo è stonato. Ecco. Infatti, effettivamente cantare l'inno di Italia, perché è vietato cantare, giusto, in Parlamento? Ripeto, nel regolamento tante cose non ci sono, io ho cercato di prendere tutto quello che non c'è. È vietato essere stonati. La smetta. Comunque il buon Mario Adinolfi ora ci spiegherà perché è importante fare le riforme anche con Verdini e che non c'è niente di male in tutto ciò, anzi assolutamente. Allora, prego. Dobbiamo partire da un concetto chiaro, che andare in politica e dire ci sono i buoni e ci sono i cattivi è semplicemente da crediti. Sono tutti buoni. Tutti fanno i loro interessi, ovviamente costruiscono le condizioni dei loro interessi. La politica è uno scontro da gruppi di interessi. E possiamo decidere se sono rappresentativi o no, ma è quello, non è che è nient'altro. Ci sono quelli che fanno interessi che sono buoni, quelli che fanno interessi che sono cattivi. Renzi vuole fare le riforme, per fare le riforme ha bisogno dei numeri. Senza Verdini non ci sono i numeri, quindi non è che stiamo a discutere il passaggio di Verdini è un passaggio decisivo, peraltro, come dice sempre Renzi, Verdini non è che prima non le votava la riforma, poi due passaggi parlamentari, certo che adesso è diventato cattivo. Sì, sì. Ma anche tu sei raffreddato, ma che c'hai, Marione? Anche tu stai malissimo. Ho un calo di voce, un calo di voce. Per la radio va benissimo. Ma perché ti favi Napoli? Non ho capito. No, perché ho fatto, diciamo, 9 ore di presentazioni per l'Italia. Ma adesso ci arriviamo al Vaticano, tra poco ci arriviamo al Vaticano. Però insomma, in Parlamento è successo questo, Lucio Barani, ma a te è simpatico Vincino questo Barani che va in giro col garofano craxiano? Allora, Barani è insopportabile, però il gesto non si è visto. Io cerco, ma in televisione il gesto non si è visto. No, c'è quello di Danna. Quello di Anna è stafuncia, come dire, è una cosa com'è? Stafuncia praticamente. Stafuncia. Si dice così a Palermo. Le mani là. Scusa, com'è? E basta, l'abbiamo già detto. No, è volgare, ma è normale, cioè popolare, normale cosa. Ma come popolare? Ma com'è possibile? Il Senato si rivolge a una donna e fa com'è sta funcia? Quello che fanno i grillini sono cose terribili là. Saltano sui banchi, buttano cose, fanno. Ah, quindi le ha risposto per le rime. Ma che gli ha risposto? È una lite, è una rissa tra loro, questi dici scalmanati, danno uno scalmanato. amato da sempre, non è, è quello di... Sì, infatti che oggi tra l'altro sul Corriere... No, attenzione vicino, perché sul Corriere c'è un'intervista a Danna che se la prende col Movimento 5 Stelle. Ora tu che odi Danna, adesso come te, da che parte ma stai? No, ma io li odio a tutti, non è che io non odio Danna, non è che assolutamente, non è, cioè come dire, non è che... Vabbè, allora dai, allora sentite qua, però il mio odio è alto livello. La taverna si è arrabbiata con Barani, si è arrabbiata molto. Vi mimandolo con il senatore Verdini che gli accanto, forse perché gli è proprio all'uno e all'altro considerare in quella maniera le donne. È così! Senatrice, Marco Maiale, mi chiamo all'ordine. Porco maiale, azzozzo! Gli urlava di Nolfi, azzozzo! Sì, no, questo forse è il passaggio più terrificante. Insomma, io non ho antipatia per i 5 Stelle, quindi ho. Non sei vicino. Lavoro, ecco, anche, no, sei io vicino. Ripeto, io penso che la politica sia un teatro, e dentro a questo teatro lui non gioca la sua partita, e questa è la partita del 5 Stelle, non mi scandalizza, la sua natura è questa. Ora, però. Lo ripeto, io della descrizione di questa partita come descrizione tra buoni e cattivi, per cui esistono le donne sante angelicate e i porci maiali, e questa cosa non va mai convinto. Ora verrà usato Barani sicuramente come capro espiatorio, gli daranno non so che la settimana. Ma sì, ma 10 ma sì, ma si fa esatto, ma si fa un po' di giorni a casa. Che sì. Roba è sta roba qua? Ma niente. Non abbiamo. Ora, posso Italia di gesto la colpa Barani, di chi è la colpa? Non ne capisco di Grasso. Eccola là, la colpa di Grasso, che è Grasso. Non ha saputo tenere da due anni, non sa tenere il Senato. Non sa tenere il Senato. Allora lui in cuore suo simpatizza con i 5 Stelle, gli fa fare il cazzo che vuoi. Eccolo lì, giusto per la colpa è di Grasso, totalmente di Grasso. È il più inabile presidente del Senato delle ultime 10 legislature. Oh, assolutamente. Punto. È la verità. No, vabbè, però effettivamente qui Mario in secondo piano ormai è passata la riforma, no? Già. Una cosa incredibile. Noi ci discutiamo, noi siamo 5 giorni e discutiamo il gesto di Barani. Questo paese gesto che non si vede, che non si vede. Va bene, allora discutiamo di un altro gesto, di un altro piccolo gesto che ha fatto un teologo. E che Ciaramazza Rodrigo Eli il gesto di... Ma Rodrigo Eli non è teologo, anche se ha un po' il nome da teologo, potrebbe essere Don Rodrigo Eli, effettivamente. Don Rodrigo Eli ci sta bene. Ah, tra l'altro devo dire un messaggio veramente, cioè ieri mi hanno scritto Rossella Brescia e Veronica Gentili che di calcio non se ne occupa, soprattutto Veronica Gentili sa di calcio come io so di arabo antico, e ieri mi scriveva i messaggi sul Napoli, ma che ti frega del Napoli, ma che ti frega del calcio? Sono simpatizzante di Filippo Inzaghi, quindi per quello. O di Zeedorf, uno dei 10 allenatori che sono passati. Comunque un abbraccio a Rossella Brescia, un abbraccio a Veronica Gentili, ma non occupatevi di calcio. Grazie. Siete femmine, adesso questa cosa neanche Barani l'avrebbe messa così. Allora, il gesto del Monsignor Ciaramza, vogliamo sentire qualche, e lo sapete ormai, è quel teologo che ha detto: sono gay, ho il mio compagno e il Vaticano sbaglia sui gay. Questo in grande, grande, estrema sintesi. Ciaramza. Io ho fatto coming out. Questa è la decisione personalissima in un mondo omofobico della Chiesa Cattolica molto difficile e molto dura. Eccolo lì, caro, in questi brevi secondi, caro Mario Di Nolfi, c'è tutto. Io gay in un mondo omofobico della Chiesa. Ma non è che il mondo è omofobico, la chiesa omofobica. C'è una cosa scritta, il catechismo, che parla proprio chiara, c'è scritto che l'omosessualità è una condizione intrinsecamente disordinata, questa è l'espressione che usa il catechismo della Chiesa. Se io chiedo domani l'iscrizione alla Fossa dei Leoni, credo che ci siano delle difficoltà nell'ammettere. Non c'è più la Fossa dei Leoni come tifosi del Milan, le brigate rossonere. Mi iscrivete, mi date la testa ai soci onorari, e ho paura ci siano delle difficoltà. Capito, ma voglio dire, ma cioè, perché uno omosessuale deve stare fuori dalla chiesa? No, non se la deve vivere. Ma non... due questioni sono: primo, c'è questa regola dentro il catechismo; secondo, qualsiasi sacerdote è tenuto al celibato ecclesiastico, quindi è una regola, non è che dici, sai, se andavo con ma dai, ma Marione, vabbè, ma è una regola che non rispetta nessuno, ma non rispetta la ma... regola è peccare e poi confessarsi. C'hanno le mogli, vanno in confessione, cioè, c'è una moglie e non si può fare, mi dispiace, questo è il tipo di regolamento che c'è nel flesso. Ho avuto un rapporto sessuale, no, l'astinenza, la castità, non si può fare, è la regola. Confessi, hai un altro rapporto e poi ti confessi di nuovo, dai. Vincino la vede così, un po' più da anarchico. Ma pure là, non da, anche lì, se vuoi prendere in giro te stesso, ovviamente puoi fare così. È la vostra storia. Nel giorno dell'inizio del sinodo fa un gesto mediatico, organizzato, con una regia molto precisa. Non è che gli viene quel giorno lì, oddio, l'istinto. Questo è vero, non è che l'ha detto. Questo è vero, non è che l'ha detto un giorno così, il 12 luglio, voglio dire. È chiaro. Deve avere tutti i giornalisti davanti a fare questo passaggio che deve pubblicare il libro in italiano e in polacco, ha detto chiaramente. Una regia precisissima. Di tutti, vabbè, ma al di là della regia è chiaro che se uno fa una cosa, aspetta, vabbè, lo riprendiamo dopo il traffico, ma è chiaro che se uno fa una cosa del genere lo fa nel momento di, per ottenere attenzione mediatica, anche perché il gesto è talmente clamoroso che lo fa per ottenere una eco vasta, non è che lo dice il 15 agosto quando tutti stanno in vacanza. Comunque dopo il traffico rientriamo con Vincino e Maria Dinolfi. A Milan io voglio sentire il traffico. Amila, lo vuoi capire o no? Da da, do di da du du. Da do di da di. Che significa in italiano? Da lì, due giorni da scemo. Da qui, due giorni da Dio. Scandalo Volkswagen. I tedeschi sono peggio degli italiani. Ma che stai dicendo? Il ponte l'abbiamo buttato giù, l'abbiamo rifatto, poi l'abbiamo ributtato giù. E poi il vitalizio l'abbiamo pulito, però il vitalizio ultimo è il mio, perché dopo lo appogliamo, non ti preoccupare. Le mazze, ci vogliono le malle. Le mazze. No, i picconi ci vogliono. Milan, ma che ci fai lì alla radio? Quando parli ci capisci una sega. Che figata, torna Giannino con Milan al mattino. Esco prima, così la sento tutta in macchina. Il signor Miller, ma quando è simpatico il Vignarulo là, quello che fa c'è vignette vincina, quello che parlano poco siciliano, poco italiano, quello che protegge il busto di Andreotti, è un grande galantuomo, fallo venire spesso a Radio Mattino 24, ciao. Eccolo qua Vincino, quello che protegge il busto di Andreotti, come sta? Europeo, là, che sì, è un nostro sta bene, non piange, non era vero che piangeva, no, smentisco, non ha pianto. Come no, sta? Sta là, appunto, dopo questo coming out del Monsignore, come sta? Ma là, quello, come dire, Andreotti riconosceva tutti, là, non è che, ma il 90% là dentro sono come il Monsignor. 90% adesso. Sì, ma ti ricordi là quando c'è quello importante dell'ANAS alla P6, alla P5 che avevano arrestato, cosato, lui faceva i festini, no? Vabbè, ma il 90% adesso, ma che ne sai tu? No, cioè, ci sarà qualcun altro, no? C'è una piccola minoranza, ma normale secondo i dettami della Chiesa. Guarda che nel 500 hanno stabilito là il matrimonio, quelle cose là, ma prima sposavano, facevano il cavolo che volevano, abbiamo figli, papi, cose. Era una chiesa molto più divertente quella, molto più capito Adinolfi, la chiesa pre-avanti Adinolfi era più divertente. Marione, a me farebbe divertire tanto pure adesso, quindi insomma pare che effettivamente tutti i giornali sono tutti a disputa di Ceramba, che adesso è che, per cui evidentemente. Senti, ma che gli succede? Di la verità, a parte l'hanno sospeso da tutti gli incarichi, ma che gli succede a uno così? Questo sa bene cosa gli succede, l'hanno sospeso dagli incarichi di insegnamento, adesso ci sarà licenziato. Vabbè, insomma, sì, questo Oscar Giannino. Oscar Giannino. La sospensione a Divinis anche da ruolo sacerdotale, questo decide il vescovo, che è lo polacco. Sì, sì. Non neanche una CIG, una cassa integrazione, niente. Di cosa vivrà? Si è messo fuori, ovviamente, da questa sarà Renzi che farà un gesto e lo prenderà come ministro di culto là alla cosa. Non avrà alcun bisogno, guardate, non avrà alcun avrà bisogno. L'autostrada la Stricata d'Oro, quindi state proprio tranquilli, non c'è alcun bisogno. Sarà più ricco di me e te, Vincino, messi insieme. State molto tranquilli, non c'è proprio problema per il futuro di Ciarapa. Vabbè, vedo che già la segreteria telefonica è molto molto in fibrillazione, lo devo dire, perché arriva Oscar Giannino dalle 8:15 oggi, da oggi, dalle 8:15 alle 9 ci sarà Oscar Giannino insieme. Che c'è, Vincino? No, sono contento. Io bene, Oscar. Ascoltaci. Ma non abbiamo parlato di questa, vabbè, lasciamo Ciarams ai suoi drammi. Oggi la stampa intervista anche Formigoni in quanto astinente. Ma che astinente? Quello astinente, dai, no. Chi ci crede? Ma nessuno ci ha mai creduto. All'astinenza di Formigoni non ci ha mai creduto a nessuno. Insomma, lui. I bollerini arancioni, lui assolutamente. E adesso prendiamolo per astinente. Allora, però arriva, questo lo dobbiamo dire in due minuti, la bolletta, cioè il canone da pagare nella bolletta della Rai. Lo ha detto Renzi. Fregati, il canone è 100 euro. Sì, per la verità ce l'aveva detto anche l'anno scorso il sottosegretario Giacomelli a Mattino, e alla sera Renzi l'aveva detto qui a 24 Mattino. L'ha detto lui al Mattino e a sera Palazzo Chigi l'ha smentito. Però stavolta l'ha detto Renzi in persona da Luce Annunziata. Senti un po'. Una delle misure che sarà contenuta in legge di stabilità è che noi riduciamo il canone e contemporaneamente diciamo che lo devono pagare tutti. Credete nella famosa bolletta? Credo che questo sia lo strumento. Credo che questo sia lo strumento. Amici, vi arriva il canone Rai in bolletta. Non potete scampare. Tu, Vincino, lo paghi? Assolutamente. Cioè, non lo assolutamente so, che. No. Lo paghi o no? Non lo so, qualcosa pagherò, guarda. Non lo paga, eccolo qua. Guardia di finanza, prendete l'indirizzo di Vincino. Già ce l'hanno per i fatti loro, guarda. Tu, Marione, lo paghi il canone della Rai? Io lo pago, la mia domanda è quale bolletta, non ho capito. Elettrica, credo elettrica. Staccheremo la luce. Perché non c'è quella del telefono? Il telefono no, dai, la bolletta della luce. Elettrica, la bolletta, sì, il gas no, credo che col gas delle televisioni a gas ancora non si faccia. La bolletta elettrica. Qualsiasi azienda uno si rivolga, c'è la libertà del mercato. Qualsiasi azienda. Pagare tutti per pagare meno, questa minchia. Cioè, nel senso, no, questa idea. È una stronzata peggiore del secolo, guarda. No! Nella vita, guarda, questa qua la dicono da 30 alla 40. Ho capito, ma se c'è un canone della Rai, che è la tassa più odiata dagli italiani, questa è. Privatizzare la Rai, non c'è una sola cosa. Va bene, ho capito, ma intanto che la privatizzazione. No, nel 2322, certo, e intanto se c'è una tassa va pagata, se no fate una battaglia per togliere questa tassa. Vabbè. Vincino, però pagalo. La musica finale, sì, la pago. Però pagalo, dai, Vincino. Pago. Dai, guarda, veramente pagalo, se no do il tuo nome alla Guardia di Finanza. Mi sento obbligato da amico di farti mandare una visita delle Io guardi, ti scanzi il liberi. Se oggi ti bussano in divisa, apri, te li ho mandati io. Ma guarda, non è che qua è sono abituato alle bustate. Vabbè. Comunque io oggi do il tuo nome, ti vengo a fare un controllino. Grazie a Vincino, grazie a Mario Dinolfi e la sua La Croce, direttore della Croce. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. E allora eccoci qui, cari ascoltatori, la 127esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è cominciata. Ed è cominciata con un 4-0 per il Napoli, tra l'altro. Bene, molto bene. T'ho detto che ho Insigne al fantacalcio. Però ho anche Diego Lopez. e quindi insomma era meglio 2-0 di Insigne, no 4-0. Mi ha annullato tutti gli effetti del fantacalcio. Vabbè, allora dai. Allora, siete pronti? Dalle 8:15 arriva Oscar Giannino. Da oggi, grande novità, attenti a noi due. Che poi siamo noi due, appunto, io e Oscar Giannino. Dalle 8:15 alle 9, dal lunedì al venerdì. Evviva allora! E intanto, avremo anche degli ospiti. Oggi abbiamo Davide Serra, vi ricordate? Fondatore di Algebris Investment, colui che vive a Londra, considerato renziano doc, renziano di ferro, quello che in passato litigò quando Bersani gli disse il finanziere delle Cayman. Davide Serra, ai nostri microfoni dalle 8:40. Intanto andiamo a leggere i giornali, dai! C'è lunedì 5 ottobre, i titoli sono le 24 ore, come abbiamo sentito anche nella controcopertina, la lotta all'evasione, il fisco riparte dal redditometro, questo è il titolo di prima pagina e dunque l'analisi della lotta al fisco. C'è anche un titolo in prima pagina sulle province, il rebus dei dipendenti, province che allora esistono, effettivamente sì. Va bene, il Corriere della Sera, il Papa, la Chiesa con le porte chiuse tradisce se stessa, oggi si apre il sinodo e il titolo in prima pagina per il Corriere è sul Vaticano, dopo anche le polemiche che ci sono state dopo il coming out di Monsignor Ciaramsa. Repubblica invece, la politica, Renzi su Verdini, così aiuta l'Italia, tagli IRES dal 2016, è l'annuncio del Premier. Renzi Verdini fidanzati in TV, anche il Fatto Quotidiano si occupa di politica, così come l'Unità, meno poltrone, meno tasse, sono le promesse di Renzi. L'onda nera devasta la Costa Azzurra, invece l'apertura della Stampa, terribile la vicenda con 17 morti, 3 dispersi, centinaia di sfollati in Costa Azzurra in Francia. Il Giornale invece, promesse false, stangate certe, sono le tasse dell'era Renzi. E soprattutto c'è una tassa, quella più odiata dagli italiani in tutti i sondaggi, che è il titolo di prima pagina di Messaggero e Giorno. Il Messaggero, Renzi, il canone Rai in bolletta. E così il Giorno, canone TV in bolletta. E voglio partire proprio da qui. Ebbene sì, cari italiani, Renzi è andato da Lucia Annunziata in mezz'ora. E ha annunciato tra l'altro questo, per la verità l'anno scorso lo faremo sentire, ce l'aveva detto anche il sottosegretario Giacomelli, metteremo da quest'anno, ma era l'anno scorso, il canone in bolletta. Nel giro di 12 ore fu smentito da Palazzo Chigi, questa volta però è proprio il presidente del Consiglio in persona a dire, Renzi rilancia, in bolletta il canone Rai per pagare meno, 100 euro invece dei 100, quanto è adesso? Boh, non lo so, 113 mi suggerisce Peter Bescapè, che evidentemente lo paga in maniera regolare, anch'io lo pago, però non è che sto lì a ricordarmi quanto costi precisamente. Comunque 100 euro dovrebbe il principio pagare tutti, contrastare una delle tasse più evase, quindi contrastare l'evasione che è a livelli altissimi e metterlo in bolletta. Ci sono già molte critiche, il governo ci riprova, coro di no, racconta il Giorno. Chi dice no? Le aziende. Paolo Baroni, pagina 7 della Stampa. È assurdo, l'abbonamento non è un contratto della luce. Asso Elettrica, il cui presidente è Chicco Testa, spesso nostro ospite, mettere il canone Rai in bolletta è un gran pasticcio, siamo contrari, in questo modo il consumatore non saprebbe più cosa sta pagando e noi non riusciremo più a fare il nostro mestiere. Anche l'Istituto Bruno Leoni parla esplicitamente di mostro giuridico, perché non si può nascondere un'imposta dentro una tariffa, che è il corrispettivo di un servizio che con la programmazione Rai non c'entra nulla, cioè il concetto è ti arriva la bolletta della luce che con la Rai non c'entra nulla e lì si nasconde il pagamento di un'imposta. Il Messaggero dedica pagina 2 e 3 a questo. C'è anche un'intervista ad Arturo Diaconale, che è uno dei membri del CDA della RAI, intervistato a pagina 3, dice: beh, purché alla fine non costi perfino di più. Se si trova un meccanismo va benissimo, con l'accorgimento però che si paghi una volta sola e non pesi su quei cittadini che magari si sono comprati dopo tanti sacrifici la casetta al mare o al paesello d'origine. La riforma del canone non si può certo fare scaricando i costi sui cittadini. Dunque Arturo Diaconale dice: non vorrei che, non so, si pagasse uno che ha due case, con magari intestate due bollette, due persone diverse, va a finire per pagare due volte il canone. Beh, questa sarebbe la beffa incredibile nel tentativo di contrastare l'evasione, addirittura far arrivare a pagare due volte la stessa persona, lo stesso nucleo familiare. Comunque Renzi, tra i vari annunci, dice questo, oltre ovviamente all'IRES, poi lo vedremo più avanti, il canone RAI in bolletta elettrica. Anche la vigilanza RAI è un po' dubbiosa, scrive il Messaggero. Sarà l'ennesimo annuncio numero 4000 320 a cui non seguirà poi nulla di fatto. Staremo a vedere, perché la legge di stabilità alle porte e il 2016 pure. Invece è stato perfezionato, era stato annunciato per tanti giorni, anche mesi, è stato perfezionato ieri ora ufficiale l'acquisto da parte di Mondadori di RCS Libri. C'è l'intesa, la notizia è su tutti i giornali in prima pagina, è un accordo da 127 milioni e 500 mila euro, come racconta il Corriere della Sera con Sergio Bocconi a pagina 20. Il consiglio di RCS Media Group ha deciso ieri di accettare la proposta vincolante pervenuta da Mondadori per l'area Libri. Subito dopo l'ok all'unanimità si è riunito il board della società di Segrate e alla fine l'accordo è stato firmato. Quindi ci sono le firme dei rispettivi amministratori delegati, Pietro Scotiovane per RCS, Ernesto Mauri per Mondadori. Prezzo fissato in 127,5 milioni di euro. Sono previsti meccanismi di aggiustamento fino a più o meno 5 milioni sulla base di obiettivi economici legati ai risultati 2015 di RCS Libri e fino a 2 milioni e mezzo a favore di RCS Media Group al conseguimento nel 2017 di determinati risultati del segmento libri. È un'operazione che dà il via a quella che viene definita come Mondazzoli, chissà come si chiamerà in realtà. Comunque è un 38% di mercato che viene sotto la stessa, sotto lo stesso polo, che viene raggruppato sotto lo stesso polo. Resta il nodo antitrust per questo, come racconta il Giorno, visto che il nuovo polo è pari al 38% del mercato. E qualcuno come Repubblica racconta il fastidio di qualche scrittore di RCS, come Nicola La Gioia, ma sono poche, sempre meno le proteste, racconta anche il quotidiano Repubblica, per una vicenda che dunque si conclude così. Un'operazione finanziaria e economica non indifferente, quella dell'acquisto da parte di Mondadori di RCS Libri, 127 milioni e mezzo. Che dire, vogliamo parlare di che cosa? Prima della pubblicità di Marino, ancora dei gesti sessisti, magari lo vedremo tra poco, ma eccolo qua, Marino, dai. Marino continua la disfida sui conti del viaggio a Filadelfia. Ha pagato lui, non ha pagato lui, ha pagato il comune, era costo zero. Era costo zero, per la verità, il sindaco di Roma l'aveva promesso. Ma ogni giorno viene fuori qualcosa di diverso. Oggi Ernesto Menicucci sul Corriere della Sera racconta: Marino a Filadelfia, quasi 5.000 euro pagati dal comune. Le spese di missione registrate al Campidoglio, che sono state scovate dagli esponenti della lista Marchini, rivelano tutto il viaggio è costato 22.000 euro. Di questi, 4.866 sono registrati in Campidoglio come spese di missione sindaco Marino, New York e Filadelfia. Dunque 4.866, questo denunciano analista Marchini sul Corriere della Sera. Anche Repubblica, Marino in trattoria nei giorni di festa, lui dice cene di lavoro, ma il caso finisce in procura. Il plafond della carta del sindaco portato da 10.000 a 50.000 euro al mese. Urca! 50, è un plafond da 50.000 euro al mese. Spesso sorride amaro, dice: io con 50.000 euro al mese, vabbè, ma è il sindaco di Roma, insomma, devi fare degli incontri istituzionali, non è che ti puoi paragonare al sindaco di Roma. Oh, scendi dal piedistallo. Comunque Giovanna Vitale racconta su Repubblica: troppe cose non tornano nelle spese di rappresentanza sostenute dal sindaco Marino, cene istituzionali nei weekend, nei giorni di festa, spuntini serali fatturati 5 mesi dopo averli consumati, convivi con medici del Gemelli, chirurghi stranieri e parlamentari avvenuti di preferenza nel ristorante sotto casa. Insomma, un lungo elenco di stranezze di cui il sindaco potrebbe dover rispondere davanti a giudici penali e contabili. Già a partire da oggi una pioggia di esposti si abbatterà sulle procure di Roma, dove tutte le opposizioni, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lista Marchini, hanno intenzione di recarsi per far chiarezza su costi e plafond mensile della carta di credito del primo cittadino. Ah, le cene di Marino finiscono in procura. Ma eccoci qui. Questo è l'articolo che oggi mi fa tenere le mani strette sul microfono e a voi le mani sul volante, se siete alla guida. E come al solito caffè bollenti da appoggiare, che sennò vi vanno di traverso e vi scottate. Succede a Bari, lo racconta Repubblica, pagina 25, lo raccontano Gabriella De Matteis e Giuliano Foschini. Sentenza shock, non c'entra la mafia con la strage dei boss. Il titolo è emblematico. C'è stata una sparatoria qualche tempo fa, era il 2013, un Kalashnikov tra la folla, 4 morti. Ora tutto ciò va a processo, tutto parte dall'agguato a Giacomo Caracciolese, boss ammazzato il 5 aprile del 2013, ci fu poi una vendetta appunto con 4 morti, ma il giudice dice tutto è partito per un delitto d'onore, era una questione sentimentale. E sparisce in tribunale la parola mafia, sparisce l'aggravante mafiosa e rimane invece questa giustificazione. No, non era la mafia, era una vicenda così, un delitto maturato per motivi passionali. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oh Lino, dico, ma te sei proprio imbriaco di mattina, buono, no? Ma proprio te sei imbriaco, te ne sei bevuto, ombre? No, ma devo commentare. No, ma grazie per la sobrietà da questo sobrio ascoltatore che ci ha mandato allo 02 4652 4492, c'è cioè la nostra segreteria telefonica, questo bel messaggino. Grazie, grazie davvero, e appoggio un attimo il bicchiere che noi andiamo avanti a leggere le notizie dai giornali. Allora, Renzi ieri, accomodandosi nel salotto di Lucia Annunziata, non ha annunciato solo il fatto che il canone Rai sarà pagato in bolletta probabilmente a partire dal prossimo anno, ma ha annunciato anche che l'IRES tassa sarà ridotta già nel 2016. Tutte le imprese, non solo quelle che operano al sud. Niente anticipi invece per la digital tax. Google, Facebook e gli altri giganti del web, almeno fino al 2017, non pagheranno tasse sui profitti realizzati in Italia. Dunque la digital tax dovrebbe arrivare dal 2017. Comunque, insomma, sono tutti annunci e anche speranze. La speranza, per esempio, è che dalla voluntary disclosure arrivino dalla Svizzera non 2,5 miliardi o 3, come qualcuno ha detto, ma 5 miliardi di euro. E vabbè, sono tutti annunci, per la verità bisogna come sempre fare degli atti di fede di fronte a questi annunci, vedere se sarà così. Marco Conti sul Messaggero a pagina 5 racconta lo sprint del governo sulle imposte, il taglio per convincere Bruxelles. Sapete che Bruxelles ha dei dubbi anche su dove tagliare le tasse, dice Bruxelles bisogna lasciare le tasse sulla casa e tagliarla invece sul lavoro, mentre Renzi dice no, dobbiamo togliere le tasse sulla casa subito. Ed ecco allora, se qualcuno aveva dei dubbi, scrive il Messaggero, su chi dà la linea di politica economica di governo, Renzi li ha dissolti ancora una volta, annunciando in TV in mezz'ora che nella legge di stabilità ci sarà il taglio dell'IRES già dal 2016. Questa accelerazione che sorprende i tecnici del ministero, anche se lo stesso Presidente del Consiglio mette subito le mani avanti sostenendo che col Ministro Padoan andiamo d'accordo. Quindi già secondo il Messaggero questo annuncio del taglio dell'IRES del 2016 ha creato un po' scompiglio, perché al Ministero dove c'è Padoan, non dico che non lo sapessero, ma sono rimasti sorpresi. L'idea che Renzi ha spiegato su Rai 3, scrive il Messaggero, è quella di anticipare almeno in parte il taglio dell'IRES al 2016, in modo da arrivare entro il 2017 a un livello di tassazione sui redditi d'impresa pari a quello della Spagna, cioè 25%, mentre ora le tasse sui guadagni d'impresa in Italia sfiorano il 31,4%. Per queste alle prese con i consiglieri economici Taddei e Gutgeld per inserire già il taglio dal prossimo anno, indicando nella legge di bilancio non solo quello del 2016 ma anche l'obiettivo da raggiungere già nel 2017. Ce la farà soprattutto a convincere Padoan? Chi lo sa. Per la verità un altro dubbio si insinua da giorni, ed è quello sul taglio alla spesa pubblica, la spending review, per il quale c'è un nuovo commissario, appunto, che è Joram Gutgeld, e per cui si dice, guardate che l'obiettivo da 10 miliardi, se è sparsa questa voce, non si otterrà, si arriverà a 6-7 miliardi, non di più. Oggi però Federica Guidi, che è ministro dello sviluppo economico, pur dicendo non è il mio dossier di competenza, ma in un'intervista a Repubblica dice guardate che sulla spending review rimangono i risparmi per 10 miliardi. Per quanto ne sappia io, dice il ministro Guidi, visto che è un dossier che non è tra le mie competenze, non mi pare però ci siano stati cambiamenti. Penso proprio che si arriverà a 10 miliardi di euro di spending review. Ci sono molti sprechi da tagliare, c'è molta spesa pubblica improduttiva, c'è da lavorare molto per rendere efficiente la macchina burocratica. Dunque, Federica Guidi su Repubblica, anche se, ripeto, non è proprio il suo campo, però tranquillizza a dire, per quanto ne so io, 10 miliardi e la spending review a 10 miliardi sarà. Anche qui staremo a vedere. La politica invece si anima sempre per la riforma del Senato, è sempre lì. Ci sono gli strascichi, le polemiche di quello che è successo, i gesti sessisti in Senato. Lucio Barani, che è il senatore orgogliosamente socialista che si aggira ancora col garofano al petto, anche se Bobo Craxi ha detto ha infangato il nome di mio padre, tolga quel garofano appuntato all'occhiello, avrebbe Lucio Barani fatto il gesto di mi mando un rapporto orale nei confronti di una senatrice del Movimento 5 Stelle. Per la verità non ci sono foto, immagini, ma ci sarà un processo, pensate oggi un processo, la sanzione a Barani che al limite rischia 10 giorni di seduta, di sospensione, stipendio garantito, tutto a posto, tarà luce e vino, ecco il massimo che rischia. Ma c'è un altro gesto che invece è stato immortalato, e cioè il senatore Danna, che invece è stato fotografato, la sua foto circola, fa il gesto che prima Vincino ci ha tradotto così a Palermo, diciamo sta fungia. E andate un po' a informarvi. E comunque la foto c'è. Vincenzo Danna fa delle interviste, ne fa una al Corriere della Sera. Sentite qui, io scusarmi per quel gestaccio, non ho nulla da cui scusarmi, perché le geremie di sessiste sono state inscenate da altri. Ho invitato certo Barani a scusarsi perché il suo gesto è stato malamente interpretato, ma è difficile chiedere scusa a chi usa parole da trivio. E con chi ce l'ha? Con i 5 Stelle? Ma sì, fanno una gazzarra indegna, ci danno dei poltronari, dei parassiti sociali. Il gestaccio lo ha fatto la Lezzi, senatrice del Movimento 5 Stelle, a Barani, e io l'ho mimato. Le cosiddette signore fanno ben peggio di noi, e Grasso lo consente. grasso, se invece di fare il finto tonto ponesse dei limiti, non spunterebbero cartelli, non si griderebbero licenziose offese. Ma poi il capolavoro dell'intervista del senatore D'Anna è questo, quando dice: ma scusi, ma voi verdiniani avete varcato il limite della decenza con questi gesti volgari? Sentite cosa risponde D'Anna: siamo fatti di carne e ossa, anche noi senatori. E poi ormai gli organi sessuali sono diventati interpunzioni nel linguaggio di tutti. Le interpunzioni del senatore D'Anna, che poi dice ancora: quelli del Movimento 5 Stelle sono parassiti, pupi nelle mani di Grillo e Casaleggio. Che bel clima che c'è al Senato. Verdini invece se la canta, l'abbiamo fatto sentire alle 6.30, ce l'abbiamo ancora, se la canta, è andato da Maria Latella su Sky a rispondere alle accuse del fatto, insomma, di fare la Correnzi, gli inciuci, eccetera, e lui dice: ma no, ma che inciuci, i nostri voti non puzzano, al Senato manca la maggioranza, se la canta, e poi quando hanno detto è come il vento che rischia di finire in miglia vacca, quando Gotor si sveglia e poi si e questo è Verdini, cioè è così, li prende pure per i fondelli, va bene. Eccoci qua con la nostra interpunzione, Mauro Meazza. Mauro Meazza, buongiorno. Salutiamo la capolista, che è buongiorno, la Prosesto. La capolista Prosesto. Che ha vinto anche ieri. Siamo primissimi in classifica. Esatto. La Prosesto. Classifica, non so se è una parola che tu stai usando con una certa leggerezza. Sì. Perché non so se ci conviene parlare di classifica all'uno e all'altro. A me no. È una classifica interessante. Cioè, a noi della Prosesto, sì. A noi della Prosesto, sì. Ecco, ti volevo dire che c'è una classifica interessante oggi sul Sole 24 Ore, che non è quella invece del campionato, neanche della Prosesto, ma invece è una classifica che appunto riferisce delle frodi UE accertate. Ah, dove siamo primi? Quella è la notizia. Ottimo. Che ti volevo dare, che di solito l'Italia era prima nelle frodi UE, diciamo, ci siamo aggiudicati il titolo per qualche anno, e invece stavolta non siamo più i primi. Oh. Non ti dico chi è il primo, leggilo poi sul Sole 24 Ore. Siamo scivolati addirittura settimi, caro. Diccelo. Un peggioramento deciso, no, il contrario naturalmente, un miglioramento deciso. Prima è la Spagna, lo dico io, poi la Polonia e poi la Repubblica Ceca. Prima è la Fiorentina, caro, lasciamo stare, va. Comunque leggi poi il lavoro che ha fatto Chiara Bussi, perché ti spiega bene anche come mai c'è questo rovesciamento, ci sono state anche delle modifiche normative che portano appunto a questo risultato differente. Poi naturalmente parliamo anche dei controlli fiscali, perché con ottobre comincia l'ultimo trimestre, che è sempre molto caldo, calduccio per gli accertamenti, i controlli fiscali. Allora tutte le armi che il fisco ha a disposizione per verificare i tuoi due urini, caro Milan, ottimo, e capire anche dove li hai messi. Sai che c'è la Voluntary, lo sai. Certo, la Voluntary, ecco. Certo. Ti dico telegraficamente che parliamo di personale delle province anche oggi, la questione ti è cara, settimana numero 127. Ecco, 127, decisiva, ce forse. Ne vorranno, no, decisiva no, no perché no. Ce ne vorranno meno 25, scopri perché sul Sole 24 Ore, e parliamo di mutui, non solo perché c'è una cartina dell'Italia che ti dice dove sono più ripartite le relazioni, ma anche sull'Esperto Risponde, nella parte di risparmio e famiglia. Molto altro ti vorrei dire, ti dico solo c'è ancora la guida fiscale, mettiti la cravatta, la guida della riforma fiscale, questa volta parliamo di riscossione. Papillon, vado di Papillon stavolta. Papillon può andare bene per la riscossione, direi, e poi ti parliamo anche di riscaldamento. Anche di riscaldamento in condominio, anche se è lunedì. Ah, poi, anticipate. No, parliamo di condominio anche di lunedì, perché no? E tutto ciò premesso, caro Milan, so che oggi ci saranno grandi novità per la tua seconda parte. Esatto, arriverà Oscar Giannino da oggi. E allora un caro in bocca al lupo a entrambi, una volta tanto sarò, cercherò di essere corretto. Va bene. E ci risentiamo domani. Traffico! la libidine è qui, amore. La radio, il Milan is in pole position. See you later. Soprattutto con il Milan, il Milan, quello di ieri. Ah sì sì, caro ascoltatore, comunque grazie. Allora, per quel che riguarda la politica, visto che Verdini va di là dicendo che la maggioranza è come il vento, anzi cantandolo da Maria Ratella, allora Berlusconi ha pronto un contropiano, avendo perso Verdini e vari senatori che se ne vanno con lui. Il contropiano di Berlusconi riguarda sempre lui, la persona evidentemente più desiderata da Berlusconi negli ultimi tempi, Paolo Del Debbio, conduttore di Quinta Colonna su Rete 4. Il Messaggero racconta con Emilio Pucci a pagina 9 che, dopo aver tentato inutilmente di convincere Paolo Del Debbio a fare il candidato sindaco a Milano, ora Berlusconi starebbe pensando di mettere Paolo Del Debbio leader di Forza Italia. Tanto Berlusconi dice: io farò solo il regista. E quindi il nome nuovo, se così si può dire, scrive il Messaggero, è quello di mettere a capo del partito Paolo Del Debbio. Il Cavaliere lo vedrebbe bene come sindaco di Milano, la poltrona però di Palazzo Marino non è la sola opzione in mente. A Mediaset continua a circolare la voce che Del Debbio stia preparando l'ingresso in politica, addirittura che abbia già preallertato l'azienda sulla possibilità di mettersi in aspettativa. Il diretto interessato smentisce, ma c'è questa idea di metterlo leader di Forza Italia. Anche ieri sera si sono visti e si vedono spesso a cena, racconta il Messaggero. Sarà vero? Staremo a vedere. Oggi inizia il sinodo in Vaticano, per 3 settimane si parlerà di famiglia. È chiaro che c'è stata questa bomba mediatica alla vigilia del sinodo, certamente non è un caso, lanciata da Monsignor Ciaramsa, teologo, che ha detto: eccomi qua, sono omosessuale, ho un compagno e la Chiesa dovrebbe essere meno omofoba. Ovviamente è stato sospeso da tutte le cariche. Fanno sapere i giornali che al sinodo non si parlerà di Monsignor Ciaramsa e ora ci si divide. Sul Corriere della Sera, che ha fatto questo scoop mondiale, bisogna dire, visto che ha fatto il giro del mondo, pagina 6, viene sentito anche il partner del teologo cacciato. Siamo liberi ora dalla vergogna, racconta a Elena Tebano a pagina 6. Non ha mai lasciato per un secondo in questi giorni Monsignor Ciaramsa, in questi giorni molto molto intensi per lui. Mentre Repubblica intervista un ex allievo, un ex compagno di scuola del Papa, che è Iaio Grassi, 67 anni, gay dichiarato, e che tra l'altro il Papa ha incontrato nel recente viaggio in America, ha incontrato lui e il compagno di lui. Ed eccolo qui, intervistato da Rosalba Castelletti a pagina 12, l'ex allievo omosessuale dice: l'uscita di Ciaramsa ha danneggiato tutti noi, il suo coming out non è stato molto appropriato. Parla così Iaio Grassi, gay, argentino di origini italiane, ha conosciuto Bergoglio 50 anni fa, quando l'allora cardinale insegnava letteratura e psicologia a Santa Fe. È stata sbagliata la tempistica di questa uscita, è stato sbagliato il modo in cui ha scelto di farlo. Ho letto solo una dichiarazione di Monsignor Ciaramsa, non voglio dare giudizi affrettati. Ma piuttosto che ai giornali avrebbe dovuto parlare della sua omosessualità a un altro prete o direttamente al Papa. Parlare di omosessualità in questo momento serve solo a distrarre la gente dagli altri temi importanti sollevati da Bergoglio: l'ambiente, la famiglia, la povertà, condividere quello che abbiamo con chi non ha niente. Questo è l'ex compagno di classe, l'ex amico, l'amico attuale di Papa Bergoglio, che l'ho conosciuto 50 anni fa, gay dichiarato. Ma certo, ci sono tante pagine sul sinodo, c'è anche una pagina interessante di Jenner Meletti e Andrea Selva su Repubblica. Dove vanno? Vanno a cercare di raccogliere informazioni a Trento, dove c'è il convento dei padri Venturini. Il convento dei padri Venturini è la congregazione di Gesù sacerdote, dove vanno tutti i preti che hanno qualche momento di difficoltà nella loro vita. Non parla molto volentieri il responsabile di questo convento, Gianluigi Pastò, 71 anni, perché dice: non vogliamo associare il nostro convento come dire, un convento per preti pedofili o preti gay. Se è scritto di tutto con titoli assurdi, è semplicemente un convento in cui arrivano sacerdoti che soffrono in un qualche periodo della loro vita di depressione. Non vogliamo essere marchiati, però certo, eccolo qua, nel convento dove il Vaticano manda i preti gay. È un viaggio su Repubblica a pagina 14. Oh, dobbiamo andare un po' di fretta. Beh, non ho tempo di leggere la cronaca terribile della Costa Azzurra, dove ci sono 17 morti, ma molti giornali giustamente aprono su questo. In Costa Azzurra 17 morti per il maltempo, una cosa davvero incredibile, così come tutta l'attualità internazionale. L'assalto, e che dobbiamo fare? Ormai non rimane più niente di tempo, se non da dire che c'è una circolare di un preside a Empoli che ha scritto a tutti i suoi allievi dicendo: imparate a dire il buongiorno. Lo faccio vedere anche in diretta su Periscope. Eccoci qua, sul Messaggero, la scuola, la circolare del bon ton: imparate a dire buongiorno. Questo un preside agli alunni. Buongiorno dovete dire. Ma eccoci qui all'articolo più inutile scovato sui giornali: un'analisi di tutte le fobie di chi viaggia in aereo, tutti in piedi ossessivamente, ma l'aereo non è ancora arrivato. Sul Fatto Quotidiano una pagina per fustigare quei viaggiatori che appena si spegne, quando si atterra, il segnale a lacciare le cinture, si tolgono tutte le cinture, si alzano in piedi, vanno alla cappelliera e stanno fermi lì in attesa che si aprano le porte. Ma vi rendete conto? Mezza pagina! Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan and Oscar Giannino! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Ah, che bella sigla! Che bella sigla! Ah, che bella sigla! Ma allora vogliamo spiegarlo, perché attenti a noi due? Sì, perché siamo noi due. Perché non se lo ricordano questa mitico telefilm, questa serie televisiva britannica del 72-73, in cui praticamente c'era Roger Moore, il bello che sei tu. Sì, ti ringrazio. E Oscar. Tony Curtis, il brutto, un po' antipaticuccio, che tentava di farci cose che sono. Che se io sono il bello, siamo a posto. Questo passa al convento. Eccoci qua. Non parlare di conventi oggi, che poi dobbiamo parlare di un convento particolare. Parliamone. Allora c'è Oscar Giannino, eccolo qua. Grande Alessandro Milan, un da saluto oggi a tutto il pubblico tuo. Io faccio l'intruso, ma comunque sia, eccoci qua. No, da oggi con Oscar Giannino, attenti a noi due, che poi siamo noi due. Siamo noi due, la nitroglicerina aggiuntiva. Esatto, parleremo di tanti temi, ovviamente col contributo degli ascoltatori. Lo diamo il numero verde 800 24 00 24. Caro Oscar, ti voglio subito fare arrabbiare. Vediamo. Ti voglio subito far arrabbiare. Intanto parliamo di Rai qui a Radio 24. Va sì, bene? Non ne parliamo bene, però. No. Vabbè, potremmo anche parlarne bene. Io sono politicamente scorretto, non ne parliamo. Parliamo di canone della Rai. Ebbene sì. Renzi ieri si è accomodato da Lucia Annunziata e ha detto che vogliamo sentirlo subito. Il canone costa 113 euro. Sì. Il prossimo anno costerà 100 euro. Riduciamo il canone e contemporaneamente diciamo che lo devono pagare tutti. Credete nella famosa bolletta? Credo che questo sia lo strumento. La bolletta della luce è incostituzionale. Eccolo lì, la è incostituzionale. Ma certo, perché a negare, capisci, una tassa, la tassa di possesso degli apparecchi riceventi in una tariffa, quella elettrica, è incostituzionale. Crea un casino di problemi e ci saranno impugnative a raffica a tutte le società che gestiscono il servizio elettrico, dall'Enel alle municipalizzate, che non hanno lo lo schedario Rai di milioni di persone che non sapranno distinguere tra prime e seconde case, che dovranno tagliare la luce a chi a quel punto dice no, io non ho l'apparecchio, che cavolo mi vuoi far pagare, e gli tagliamo la luce. Sai che però il canone della Rai si paga anche se hai un qualsiasi sistema di ricezione, il tuo, telefonino, la tassa lo dice, ma non è che lo paga chiunque a prescindere, capisci? Come invece tu giustamente sei un po' giustizialistimamente a favore. Io sono contro. E ti dico subito che avrei preferito la riforma della Rai delle Leopolde, quelle che diceva che facevano come la BBC. La BBC, lo sai che nelle reti che fanno servizio pubblico non ha gli spot, e a quel punto c'è il canone più elevato. Oppure chi ha avuto gli spot, la Spagna, l'Olanda, il Portogallo, il canone lo ha abolito. Noi non abbiamo fatto né la riforma BBC né quella della Spagna, Polonia, eccetera. E poi leviamo la luce a chi. Allora, dai, no, io dico una cosa: sono completamente d'accordo quando tu dici in Italia si farà il pasticcio per cui chi ha due case, una intestata alla suocera, una intestata a se stesso, pagherà due volte, cioè rischierà di pagare, di ricevere due volte, di pagare il canone della Rai. Però le aziende elettriche diventano sostituto d'imposta e quindi loro saranno tenute a pagare allo Stato se non raccolgono. Ma è una follia pura. Allora, c'è follia sempre un giudice a Roma, come e diceva, vedrai, il famoso detto, e tu vedrai, lo sai. Ma io dico, siamo almeno d'accordo, Oscar, su una cosa: se c'è un canone della Rai, che è la tassa più odiata dagli italiani, è vero, e più evasa dagli italiani, se c'è, fin tanto che c'è, va pagato o no il canone della Rai? Ma va pagato secondo come mi chiedono di pagarlo. Se me lo chiedono in maniera incostituzionale e illegale, confondendo una tariffa e una tassa, noi che vogliamo difendere il presidio della civiltà del diritto tributario, diciamo, avete avuto una pessima idea. Vabbè, cari italiani, 800 24 00 24, questo canone della Rai, guarda che era la più odiata, ovviamente è uscito più dell'IVA, era uscito un sondaggio odiata, sì, ma è l'IVA quella più evasa. Comunque segnaliamo quella più evasa, sì, ascoltatori, certo, che di tutta la stampa italiana oggi premio a Paolo Baroni della Stampa, che fa un articolo in cui spiega tutti i motivi per cui questo tema si rivelerà una trappola. L'Oscar di Oscar a Paolo Baroni della Stampa. Ma vabbè, sì, ma ci saranno i ricorsi. Ma effettivamente anche Chicco Testa, spesso nostro ospite, presidente di Assoelettrica, dice: ma come? Ma noi sulla stampa? Dice: ma come? Noi adesso cosa facciamo? Scorporiamo, certo, la voce canone in bolletta. E vabbè, metti canone Rai in bolletta e uno legge canone Rai, no? Non sarà, c'entra un problema niente con il motivo per cui hai la bolletta per pagare tariffe in cambio di un servizio. Non c'entra niente. La tariffa è una cosa, la tassa è un'altra. Questo, cioè, è vero. Lo Stato confonde perché è disparato. Perché la gente non paga il canone? Perché sono gli italiani immorali o perché la Rai non è un servizio pubblico? Te lo vuoi porre questo ma problema? Secondo me il 90% di chi evade non gliene frega niente di quelli che sono i programmi Rai, lo evade perché può evaderlo. Poi ci sono quelli che dicono: no, la Rai non mi piace. Ci sono quelli. Poi sai che ci sono i leghisti che lo fanno per obiezioni. Perché non di coscienza hanno fatto una riforma Rai del servizio pubblico come gli altri grandi paesi europei? No, non le vuoi sentire. Vabbè, lo so. Tu è una persona che non vuoi sentire, ma io te lo faccio sentire lo stesso. Perché un anno fa al sottosegretario Giacomelli ce lo disse così: sottosegretario, volete mettere il canone della Rai, glielo chiedo subito, legato alla bolletta elettrica? Sì. In bolletta, diciamo. In bolletta. La bolletta, capito? A mattina ci disse questo. È lo Stato che è in bolletta, su, ma non diciamo scemenza, è lo Stato che è in bolletta. In mattina lo disse e a sera fu smentito da Palazzo Chigi. Stavolta l'ha detto il capo. È il partito Chigi. Rai che vince. Sai che Berlusconi è molto incazzato di questa roba qua? Perché ovviamente significherà più risorse alla Rai e quindi eccetera, però lo dico per informazione. No, tra l'altro tu hai detto la BBC, sai che dobbiamo dire agli ascoltatori, dopo le 8:40 circa avremo Davide Serra, il finanziere di Londra, beh, gli chiederemo della BBC. Il canone. Comunque, cari ascoltatori, l'Europa ha vinto in Portogallo, mentre sui giornali italiani c'erano tonnellate di robe su Syriza, Tsipras, Podemos in Spagna, eccetera eccetera, in Portogallo ha vinto il governo di centrodestra, che ha fatto rigore e che ha riportato la disoccupazione a quella italiana, con la differenza che 3 anni fa era il 17% in Portogallo, e cresce più dell'Italia, e hanno vinto le elezioni col 36,4%, però poco spazio, questa roba non fa notizia. Ma tu sei uno di quelli che Varoufakis se lo siamo tolto? No, leggevo Varoufakis da prima che diventasse noto, perché aveva questo blog che, per chi segue l'economia, lo segnalava come un personaggio effervescente, quindi è un situazionista, a me i situazionisti piacciono. Vabbè, caro Oscar, io so che qui parleremo poco della politica chiacchierata, e sono d'accordo con te, perché che cosa siamo arrivati lì, ai gesti, cioè questo è ormai... Siamo al punto che tutti un po' mandano i file di Verdini che canta... Ma dai, mandaglielo, Verdini che canta, no, Verdini che canta, ma... come il vento, è intonato però, che rischia di finire in miglia larga, è intonato. Oggi hanno fatto le interviste a Gotor perché citato nella canzone di Verdini. Ma ti rendi conto il meretricio a cui scende il giornalismo? Ma possiamo veramente impegnare carta, qui sfondi una porta aperta, per fare le interviste a Gotor citato nella canzoncina di Verdini? Ma a me lo dici che dico la riforma del Senato per come è raccontata ai giornali, cioè verdiniani contro Bersagnani, gotoriani contro mineiani, renziani contro... non frega niente a nessuno, cioè, e allora la gente alle 8:26 sta portando i figli a scuola, bravo, sta andando a lavorare, bravo. Però c'è un tema, poi... ma lo diamo il premio al migliore editoriale secondo noi? E dai il premio al migliore editoriale, per tu puoi fare quello che vuoi. No, e questa è una conduzione comune, altrimenti andiamo fuori strada. Ho capito, non puoi... caro compare, allora, per me, non perdetevi le considerazioni di Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera, che dice: ma perché buttare i miliardi di CDP nelle aziende, amici degli amici, degli amici della politica? Ci sono 30.000 scuole che vanno in pezzi in Italia, forse con i fondi ottenuti dal risparmio postale garantito dallo Stato bisognerebbe innanzitutto utilizzarli per quello. Ma non c'erano i fondi per ristrutturare le scuole? Non c'erano già, abbiamo messo milioni, abbiamo messo miliardi. Sì. Però sai, 30.000 scuole hanno bisogno di un impegno, quindi invece che salvare la Saipem, salvare l'Ilva, prendere le quote che lo Stato non vuole cedere di ENEL eccetera, usiamo la CDP per quello. Per le scuole, guarda, io sono stato in Costa Rica quest'estate, paese meraviglioso, non hanno l'esercito, e un giorno una guida mi ha portato in Costa Rica facendo un giro, è passato vicino alla scuola elementare e mi ha detto: eccolo là, quello è il nostro esercito, indicando la scuola elementare è il paese col più alto tasso di educazione scolastica e di welfare di tutto il centro e Sud America. E mi sembra che ti dessero una giusta indicazione, utilizziamola per CDP. Mi sembra giusto, Giavazzi vince anche per me. Soldi per le scuole, soldi per le vedi che andiamo d'accordo. Ma il sinodo del Papa, ragazzi. Adesso ne parliamo. Allora, io ho la mia teoria, cioè è chiaro che questo Monsignor Ciaramsa ha fatto tutto non a caso alla vigilia del sinodo. Sentiamo una... sentite cosa ha detto Ciaramsa. Io ho fatto coming out. Questa è la decisione personalissima in un mondo omofobico della Chiesa Cattolica molto difficile. Questa è un'accusa dura. Forte. Questa è un'accusa forte. Cioè, non è che ha fatto coming out, ha detto che la Chiesa è omofobica. A me ha molto colpito la sua Chiesa. Sì, la sua Chiesa. A me ha molto colpito ieri sul Messaggero un editoriale di Francesco Ruffini, che insomma è un vaticanologo, cioè, durissimo contro questa lobby gay della Curia, che lui descriveva come attivissima, potentissima, intoccabile, come una vera minaccia a Papa Francesco. Mi sembra un pezzo durissimo, io non ne so abbastanza, ho letto. Mi ha colpito che Monsignor Ruini, Sua Eminenza Ruini, l'ex presidente della CEI, intervistato ieri a pagina 3 sul Corriere, ha una domanda esplicita. Dice: ma c'è sta potente lobby gay? Non solo non smentisse, ma dicesse: se c'è è molto triste e va fatta pulizia. Cioè, l'ipotesi è di una guerra dietro che usa anche questi temi nei confronti del Papa. Io non ne so abbastanza, devo dire che a me lì per lì mi ha... ha colpito molto, mi ha anche provocato, senza giudicare, grande rispetto, pensando al per fatto la scelta, che uno, per la scelta di Ciaramsa, non dice, per il tempo, che la tempistica per influenzare, è chiaro, come dicevi tu, ma perché la mia opinione è che non sei sacerdote teologo della Santa Sede per finta per anni. No, infatti credo che abbia portato dentro di sé un dolore, una sofferenza per anni, poi che l'abbia detto, l'abbia fatto questo coming out il giorno prima del sinodo in cui si discute di famiglia, è chiaro che non è una scelta. Però io dico che doveva farlo il 15 agosto, che nessuno certo si occupava di questa vicenda. È chiaro che lo fa dove c'è un'eco mediatica mondiale, e questo ha fatto. Vuoi anche tu buttarti su questa idea perché questo è il Papa di sinistra e quindi no, infatti non riduciamo a questi livelli. Sono sorpreso di quello che pensa Bergoglio, perché lo pensava quando stava in Argentina, quindi ognuno però ti chiedo, Oscar, non secondo deve, me ha pessimi consiglieri economici, non insomma deve uscire il laico repubblicano che è in te quando lo stesso Cardinal Ruini sul Corriere della Sera dice: se approveranno le unioni civili ci saranno proteste. Ma si occupi delle anime un cardinale, non delle leggi di uno Stato. Su questo non mi devi assolutamente incitare, perché la penso così, e questo è poi le proteste ci saranno, e sono proteste che però, se vogliamo dirla, Ruini nascono dalla sconfitta del suo disegno per tanti anni portato quando era presidente della CEI, che tentò, con questo si chiamava programma culturale, di orientare la politica italiana, e ci riuscì, perché la legge 40 in realtà è figlia di questo, quella, l'aborto della legge 40 italiano. Allora, caro Oscar, sono le 8:31 minuti, come vedete abbiamo messo tantissimi elementi, ce ne saranno anche altri dai giornali sul piatto. Vogliamo sentire un ascoltatore prima di andare in pubblicità, che ci, perché vuole parlare del canone, forse? Vuole parlare del canone. Paolo, Paolo dalla provincia di Torino, lei lo paga il canone? Eccoci qua, buongiorno Milan, buongiorno Giannino, complimenti per la trasmissione. Allora, il canone, no, non lo pago, ma per una semplice ragione, perché non ho il televisore, e qui, ma per scelta. Ma ha un telefonino che può ricevere la TV? No, perché ho semplicemente il wifi quando sono in ufficio a casa, per scelta. Ma ha il computer che può ricevere la TV? No, no, no, perché non ho il wifi. Ma allora lei non lo paghi, ma che cosa vuole? No, noi? È bloccalo Mina, perché il tuo giustizialismo porterà il nostro ascoltatore a ricevere la bolletta, e noi, e noi organizzeremo la resistenza giudiziaria. Ma lui dimostrerà che non, che non deve pagarlo. Da questi microfoni organizzeremo la resistenza giudiziaria. Milan, Milan, è questo che mi spaventa. Come faccio a dimostrarlo? Io mi ritrovo tanti 100 euro da pagare in bollette, e poi vatti a far rimborsare. Ma chi vatti a rimborsare? Milan. Lei verrà indicato in una lista di proscrizione come evasore, come nemico della RAI. Diranno che le trasmissioni di intrattenimento, di missità, non potranno farle alla RAI perché lei non paga il canone. Intanto, questo è quello che intanto l'aspetta. Paolo, lei a Torino, si riscuote il canone a Torino, abbiamo il suo nome, lo passiamo subito alla Guardia di Finanza appena finita la trasmissione. Non grazie. Si preoccupi, difendo io. Sto scherzando, caro Paolo. Caro Paolo, la ringrazio. Però, ma io, Oscar, dico, non ho detto che non ci saranno problemi. Ci saranno tanti problemi. Le doppie case. Se ci sono tanti problemi, è una misura sbagliata. Capisci che è sbagliata? È sbagliata. Ma allora ti chiedo, per contrastare l'evasione, che è una tassa molto evasa, appunto, cosa faresti tu? Quello più controlli? Imparerei dai paesi che, avendo questo problema, la Spagna, per esempio, hanno deciso di fare una riforma seria del servizio pubblico. Lì hanno deciso tenere gli spot, però a quel punto, se è una forma ibrida, non gli possiamo chiedere il canone. Altre, come in Gran Bretagna, hanno deciso: questo è un servizio pubblico, il più noto del mondo, e allora nelle reti che fanno servizio pubblico, quelle per cui si paga la license fee, che è più elevata che in Italia, lì non ci sono gli spot. Misura chiara, chiaro. Anche in Svizzera, anche in Svizzera si paga, ma non ci sono gli spot, non c'è la pubblicità. Come vedi, nella radio, perché nella radio non bisogna fare riforme serie come altrove? I modelli sono diversi, io non dico che. Però qua invece, no, se vuoi la corrente elettrica, paghi la RAI, ma che cacchio vuol dire? No, insomma, è un po' un... Ho detto volutamente che in Svizzera in radio non c'è la pubblicità. Guarda che l'indispensabilità della corrente elettrica sarà uno dei motivi di ricorsi, e io passerò le mie trasmissioni pomeridiane alle 6:30 a parlare di questo. Va bene, qua. Va bene. Allora, noi, visto che invece non pagano il canone qui per Radio 24, la pubblicità ce l'abbiamo. Andiamo un attimo in pubblicità. Poi avremo, caro Oscar Giannino, Davide Serra, è colui, ricordate la polemica, nacque da quando Bersani disse il finanziario delle Cayman, siamo chiari ai nostri ascoltatori. Siccome vi mettono il canone in bolletta, un motivo in più per non ascoltare Radio Rai e ascoltare noi. Oh, evviva! Siamo qua Alessandro Milan e il grande Oscar Giannino, da oggi con noi, dal lunedì al venerdì, sono le 8:38 minuti, caro questo Oscar. Attenti a noi due. Attenti a noi due. Sai che era anche una parodia del film fatto con Nino D'Angelo e il roscio della terza C, te lo ricordi? Il roscio Nino D'Angelo lo fai tu. Sei più napoletano tu, secondo me, dei due. A parte di mamma, non c'è dubbio. Nino D'Angelo lo fai tu. Allora, caro Oscar Giannino, dobbiamo presentare un ospite che è Davide Serra, investitore, analista finanziario, fondatore e CEO di Algebris Investments da Londra. Buongiorno Serra, come sta? Buongiorno, bene, grazie. Eccoci. Buongiorno, allora io comincerei con Davide Serra, che saluto. Confesso subito la mio conflitto di interesse. Io ho imparato a stimare, ammirare negli anni Davide Serra quando, sfidando i vecchi salotti buoni della finanza italiana in generale, eccetera, eccetera, lui si presentava, alzava il ditino e diceva: guardate che la vostra governance non va, per come mettete i soldi non va, quello che dite non è vero. Allora, negli anni, in queste battaglie che faceva solitario, radio, lui ha dato un grande contributo a non solo svecchiare l'Italia, ma a rendere meno rischiosa per i risparmiatori italiani le gestioni. Quindi io lo dico da prima come la penso su Davide Serra, e comincio subito con un tema che sta molto a cuore attualmente a centinaia di migliaia di italiani, soprattutto in Veneto attualmente, sono quelli che hanno comprato le azioni senza prezzo di mercato stabilite a tavolino da popolari come la Popolare di Vicenza, Veneto Banca eccetera, che adesso ci stanno mettendo non solo una barca di soldi sui loro valori azionari, stanno vedendo che con la vigilanza della BCE le banche sono state costrette a riscrivere i loro bilanci, ad ammettere a perdere per miliardi, a fare nuovi aumenti di capitale eccetera eccetera, e adesso finalmente hanno capito che bisogna essere un pochino più scrupolosi nel vedere a chi dare i soldi. Però in Italia, Davide, molti hanno protestato, hanno detto la BCE è cattiva, queste banche erano solidissime, aiutavano l'economia eccetera eccetera. Da fuori tu come la vedi? Cosa si dice a queste centinaia di migliaia di italiani, molti dei quali ci scrivono tutti i giorni dicendo consigliateci, consigliateci, ma quando gli dicevamo badate bene a chi date i soldi non ci davano retta? Dunque, secondo me il fatto che la sorveglianza bancaria sia passata alla BCE è un traguardo enorme per l'Europa, perché di fatto è l'inizio dell'unione bancaria. Ricordiamoci, noi l'Unione Europea l'abbiamo creata come un grande mercato di scambio di commerci, di fatto mobilità delle persone, però mancava la vera mobilità dei soldi nel fatto che ogni conto corrente era segregato paese per paese e di fatto aveva garanzia solo la solidità della propria banca centrale. Adesso al di sotto dei 100.000 euro per quanto riguarda titoli deposito, quindi conto corrente, non obbligazioni, esiste la garanzia della, di fatto a livello paneuropeo a tutti gli effetti. Per quanto riguarda le azioni non quotate di banche popolari, negli ultimi 2-3 anni secondo me ci sono state delle gravissime carenze, perché quando dei peer come Milano, Verona, UBI, che è sempre stata la popolare più sicura, viaggiavano a valori di mercato di 0,5-0,6, quindi sicuramente c'era un dubbio che il patrimonio netto, ossia la cassa che avevano, non valeva 100 ma valeva un po' meno, perché c'erano nei bilanci un sacco di sofferenze, quindi di prestiti che alla fine non erano andati a buon fine. Trovo folle che queste banche in Veneto siano riuscite a, di fatto, a vendere delle azioni ai pochi piccoli risparmiatori a livelli di 1,2, 1,5, 1,6. Esatto, 1,9, e per di più a chi chiedeva mutui e prestiti dicevano se lo vuoi ti becchi un quarto di quello che ti diamo, ci ricompri le azioni. La domanda che ti faccio, io ho già polemizzato in pubblico su questo, ma sono interessato a sapere come la pensi. La Banca d'Italia dov'era secondo te? Guarda, non sono un legale, però sicuramente vedo due temi. Vedo il tema di Banca d'Italia, che sicuramente doveva, come dire, al limite, nel momento in cui qualcuno mi vuole vendere, come dire, una 500 a 3 volte il prezzo di mercato, gli forzo a fare tutte le rettifiche di bilancio in maniera preventiva. E non è avvenuto. E secondo, penso anche alla Consob, esatto, a tutela del risparmiatore, l'hanno sempre, no? Penso che sia il loro obbligo e dovere. E qui, da quanto ho capito, perché chiaramente non essendo per i mercati istituzionali non abbiamo mai guardate, si presentava sempre qualche esperto locale che, guarda caso, pensava che le banche venete valessero 3-4 volte. Anche perché intorno a quelle grandi popolari c'era una cointeressenza di potere, riguardava anche tutti i vertici di Confindustria, mi dispiace dirlo, tant'è che molti di loro sono indagati adesso dalle procure, e riguardava le rappresentanze artigiane eccetera, eccetera, e il modo in cui queste popolari, che erano ormai nazionali e non banche territoriali non quotate, hanno fatto potere improprio per anni nella vita italiana. Questo è il mio giudizio radicale, non è il tuo, ma ti chiedo un'ultima cosa sulle banche, poi cambiamo argomento. MPS come la vedi, visto che sono l'uscita dell'ipotesi che potesse stare da sola, la cosiddetta stand alone, ci ha fatto molto ridere, poi sulla stampa italiana è uscita in questi giorni, solo 24 ore, ha detto un'ipotesi di un mucchione, Unicredit, Intesa, MPS, a me ha fatto sorridere anche quello, ma tu come la vedi? Chi se la prende davvero? Secondo me Monte dei Paschi, innanzitutto, dopo... A mio avviso è sempre stato negli ultimi 2-3 anni, ero venuto anche da te a dirlo, che l'aumento di capitale che allora si pensava fosse di 1,3 miliardi doveva essere sopra i 6, tra i 6 e 9. E poi si è scoperto che avevamo ragione. Esatto, siamo arrivati a 9. Ecco, 9, secondo me, il positivo è che secondo me oggi la qualità di bilancio è, come dire, gli errori del passato in un certo qual senso sono stati coperti. Certo. A questo punto ci sono due temi. Uno, se l'economia regge il, come dire, l'1% che ci aspettiamo per quest'anno e per l'anno prossimo, chiaramente si dà uno spazio di respiro alla banca, perché vuol dire che può ripartire con l'attività commerciale, perché se cresce l'economia la banca può fare dei prestiti buoni, se l'economia decresce la banca non ce la fa, non si può essere mandracche. Ma è pronta Siena a darla a uno straniero secondo te? Secondo me sì, per il semplice fatto che comunque la Banca Centrale Europea gli ha detto devi trovarti un partner. Il vero tema è che il livello di sofferenze lordo è comunque altissimo, parliamo di migliaia e migliaia di miliardi, e quindi il vero tema è che prima che qualcuno decida di guardare a Monte dei Paschi e dire ma se qualcosa va storto io posso permettermi un tale livello di sofferenza, e le banche a poterlo fare sono pochissime. Quindi secondo me la vera opzione standalone, per il semplice fatto che tutti dicono bene, fammi vedere per 2 o 3 anni se gli accantonamenti che hai fatti sono quelli veri, dato che comunque sai anche lì abbiamo emesso un prospetto 12 mesi fa che di fatto si era sbagliato, e non di poco ma di altri 3 miliardi. Sì. Quindi secondo me chiunque dall'esterno dice guardiamo. Senti, su questa ipotesi di fare una mucchiata a 3 la trovo la più grande scemata che uno potesse scrivere. Prima pensarla, perché ci vede che qualcuno l'ha anche studiata, per due temi. Oggi la Banca Centrale Europea ha ben capito che più snello sei e più efficiente è e meglio è, non conta più la massa, quindi non è che devi essere grande ma devi essere snello ed efficiente, e sicuramente mettere assieme solamente 2 reti retail nel proprio paese, no, ma non è possibile, è inimmaginabile, bloccate dal punto di vista regolamentare. Ricordiamoci che adesso le prime 15 banche in Italia sono regolate comunque dalla Banca Centrale Europea, e quest'anno questo esercizio di supervisione, di scrutinio chiamato l'asset quality review, ossia il controllo della tua qualità dell'attivo, verrà esteso ad altre 10-15 banche. Quindi, a maggior ragione. Quindi fa sì che sempre più le decisioni vengano prese a Francoforte, perché è positivo? Perché a Francoforte, quando vengono fatte l'ispezione, non hai l'italiano locale che è connesso alla politica, alla Confindustria, come dicevi tu, ma ti ritrovi un finlandese, uno spagnolo, un tedesco, un francese, quello non ne frega niente. Senti un po', ma le previsioni su cui è appesa la notte l'aggiornamento del DEF del governo per l'anno prossimo, sai che l'anno prossimo il governo dice crescita più 1,6%, poi il deflattore, cioè l'inflazione più 1%, ma l'inflazione è tornata indietro a settembre in tutta l'euroarea, anche in Italia meno 0,3. Non è un eccesso di ottimismo fare questa cosa da parte del governo con la deflazione che si importa dalla Cina, dalla crisi dei paesi emergenti, eccetera? Secondo me l'inflazione, come dire, cioè inflazione buona e inflazione cattiva, so che non è facile spiegarlo ma ci proverò. Il pagare meno una tassa ai paesi arabi per petrolio e gas è disinflazione positiva. Noi prima pagavamo una tassa, quella tassa non la paghi più. Se riesci a importare manufatto che costa meno, è disinflazione positiva. Se tu i salari scendono o i prezzi delle case scendono, quella è disinflazione negativa, perché vuol dire che di fatto la domanda interna e il valore d'acquisto degli italiani scende. Quindi secondo me bisogna decomporre questa disinflazione. Ad oggi quello che ci troviamo è il calo delle materie prime si ribatte di fatto sui prezzi di tutto, e quindi abbiamo l'effetto positivo. Quello che va visto è il potere d'acquisto degli italiani, sale o scende. E dato che positivo quest'anno, per la prima volta negli ultimi 8 anni il potere d'acquisto sta salendo, che è in funzione di aumento di posti di lavoro, no? 300-350 mila posti di lavoro, abbiamo recuperato 1/3 dei posti di lavoro persi negli ultimi 9 anni, e 2 i salari che stanno tenendo, non stanno scendendo nonostante l'alto livello di disoccupazione. Senti, poi non sono un macroeconomista. Una cosa, perché qui il dibattito è acceso da ieri sulla questione RAI e canone RAI, no Alessandro? Sì, vorrei sapere da Serra se paga il canone della BBC a Londra. Vabbè, la BBC non hai scelta, perché penso che qui tecnicamente riescano a bloccarti l'antenna, non so come fanno, però è un must. Però ma come si paga? Come si paga? Cioè legato a che cosa? Io sono qui da 20 anni e devo dire l'unico commento che faccio è che il bello è che quando ti arriva lo statino di quante tasse devi pagare o che tu le certifichi, nel giro di un mese di fatto hai finito tutto il processo, a me addirittura nel giro di 2 settimane. Quindi la velocità e la certezza di quanto tu debba pagare fa sì che qui tutti pagano. Però se, un, se uno evade bloccano l'antenna, chi, come fanno non si sa, però, però lo fanno. Però... Sì, qui penso che a me non è mai successo perché ho sempre perché pagato, paga, sì, certo. Mi sono sempre ricordato di pagare, però penso che si paghi attraverso addirittura dare, come dire, su conto corrente lo metti automatico ogni anno come le varie utenze. È così, è così. Allora, però la domanda è, stai lì, sai perfettamente che nelle reti di servizio pubblico della BBC, non BBC World e le altre, non vanno gli spot. Sì. E hanno fatto una scelta, cioè c'è una missione di servizio pubblico, ci sono i trustees che guidano l'azienda, che sono indipendenti dalla politica e così via, e il canone è più elevato e la gente lo paga. E questo è un modello. Altri modelli di paesi europei sono stati quelli di dire: no, qui abbiamo un'elevata evasione, vogliamo che rimangano gli spot alla missione di servizio pubblico, e allora hanno abolito il canone. La Spagna, la Polonia, l'Olanda. Non era meglio scegliere con chiarezza una delle due strade invece che semplicemente dire vi mettiamo il canone in bolletta? Sì, dire, mi cogli in fallo perché di fatto ammetto di non guardare la televisione, oh, né in Italia né qui, per cui sono l'ultimo dei, uno dei motivi per cui sono a radio, che io ascolto la radio e leggo. Questo ci fa felici. Vabbè, puoi ascoltare Radio 24 anche senza cane. Felici. No, però io vorrei chiedere questo a Serra, perché lei al Foglio a maggio aveva detto il consiglio, insomma, anche in Italia, di abbassare le tasse in modo drastico per le aziende, per i cittadini, ridurre la spesa pubblica. Lo vede in Italia, perché la spesa pubblica spending review ora si parla di 10 miliardi, ma forse 7 miliardi. Le tasse sembrano più incentrate a ridurle sulla casa e forse più avanti per le imprese. Vede la ricetta giusta qui in Italia, Serra? Dunque, secondo me per far ripartire l'economia bisogna di fatto far sì che il potere d'acquisto delle famiglie salga e che gli imprenditori possano, e le aziende possano investire. L'unico modo per farlo, dato che le risorse sono limitate perché abbiamo un debito pubblico che è alto ed elevatissimo, è abbattere la spesa inefficiente, cioè gli sprechi. Sì. Ora, e le cose vanno fatte allo stesso tempo, un po' come cambiare marcia con la frizione. Bisogna farlo in maniera corretta, stessa velocità. Abbassare la tassa sulla casa, perché mi piace? Perché di fatto in Italia l'80% ha la prima casa delle persone. Sì. Se tu abbassi la cassa, di fatto è come prendere i soldi e metterli in tasca l'80% degli italiani, quindi è un effetto immediato. L'abbassarlo sulle imprese è cruciale, perché si vede più 300.000 posti di lavoro sono stati creati perché tutti hanno iniziato a reinvestire. Infatti. Io devo dire che tra le due, come scelta per accelerare il PIL, penso che quella sulle imprese dovrebbe essere un po' prima. Però questa è Serra, però noi qua ci dobbiamo fermare. L'ha presa la tessera del PD a Londra che aveva annunciato? Sì, provocatore, o no? Ce l'ha. L'anno scorso. Beh, insomma, l'ha presa. Quindi, e oggi uno è legittimato. Grazie, Davide Serra. Serra, ringraziamo, grazie per essere stato con noi. Perché dobbiamo andare a Fabio da Milano. Fabio, buongiorno. Buongiorno Milano e buongiorno Giannino. Complimenti, eccoci. Siete fantastici. Grazie. Ascoltate, non si sbilanci troppo. Ma lei lo paga il canone? Io non lo pago, ma non lo pago perché sono un evasore. Io, guardi, faccio impresa, pago tasse a profusione. Più quella del 50%, no. Più quella del 50% di quello che io guadagno lo pago di tasse a questo governo che in cambio non mi dà servizi. E perché proprio quella scelta di non pagare? Perché proprio quella? Perché se voglio vedere qualcosa di interessante devo guardare una TV a pagamento, perché non ma guardi che no, aspetti, però il canone si paga per il possesso della TV, non se guarda la Rai. No. Milan è un esattore dello Stato. Io non lo so, ma allora. Ma perché questo è un balzello che hanno inventato. Bravo. Ma va bene, bravo. Allora Fabio, diciamo la verità. Lei non lo paga, io sì. Io sono un coglione. No. Sono un coglione. Fabio è uno che dice: io voglio esercitare il mio diritto di giudizio, che quello no, non io è un sono servizio un coglione pubblico. No, ma dimmelo, Oscar. Ma io infatti no, pagando dimmelo, ti tutto prego. Io mi considero un coglione. Però tu lo dici per paradosso, io lo dico ammettendolo come realtà, perché sono disarmato di fronte al fatto che non è un servizio pubblico. Ma se è sbagliata lo posso contestare anch'io. Però la differenza è che io intanto sono un coglione e pago, e Fabio Stabia da Milano, no. Figurati, noi siamo coglioni che paghiamo. Questo vabbè, ma qua ci dobbiamo fermare, Oscar. 53-27, è già finita. No, tra 30 secondi, insomma. Ah. Salutiamo Alessandro Longoni, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè. Speriamo di non avervi deluso. Continuate con Radio 24, perché c'è adesso cosa ci segue. Naturalmente, dopo il giornale radio, sapete che arriva Minoli con una strepitosa riedizione della sua trasmissione. Quindi Mix 24, continuate con Radio 24 tutta la giornata, mi raccomando. Mi raccomando, mi raccomando. E Oscar torna domani, attenti a noi due, che poi chi sono questi noi due? Sì, io torno anche alle 16.30. Sì, ah, tu alle 16.30, anche sabato. Dormo qua, lavoratore qua. Vabbè, vabbè. Attenti a noi due poi, domani.